Capitolo 2. Il giorno seguente Anna prese il calesse per andare a Carmody a fare commissioni e portò con sé Diana Barry. Diana era ovviamente un socio sostenitore della Società per il Progresso e le due ragazze non parlarono quasi d'altro lungo tutta la strada fino a Carmody e ritorno. La primissima cosa che dovremmo fare, e subito, è di far dipingere quella sala, disse Diana mentre passavano davanti al circolo ricreativo di Avonlea, una casa piuttosto scalcinata che sorgeva in una valletta boscosa con gli abeti che la nascondevano da ogni lato. È veramente in uno stato deplorevole e si dovrà pensare a questo prima ancora di tentare di convincere il signor Levi Boulter a spianare il suo rudere. Il babbo dice che non ci riusciremo mai. Levi Boulter è troppo taccagno per sprecarci, se non altro del tempo. Forse lo lascerà fare i ragazzi se gli promettono di trasportargli le assi e di spaccarle per farne legna d'ardere, disse Anna. Dobbiamo fare del nostro meglio e accontentarci di procedere per gradi. Non possiamo pensare di migliorare tutto d'un colpo. Dapprima, naturalmente, dovremo sensibilizzare la pubblica opinione. Diana non sapeva bene cosa volesse dire sensibilizzare la pubblica opinione, ma suonava bene, si sentì tutta fiera di appartenere a una società che avesse un simile scopo. Anna, ho pensato ieri notte a una cosa che potremmo fare. Ti ricordi quell'appezzamento di terreno triangolare dove si incontrano le strade che provengono da Carmody, Newbridge e White Sands? È tutto invaso da piccoli abeti. Non sarebbe carino fare un po' di pulizia e lasciare soltanto le due o tre betulle che ci sono? Magnifico! Convenne Anna tutta allegra. E sotto le betulle sistemeremo una panca rustica e a primavera vi creeremo in mezzo un'aiuola e vi pianteremo dei gerani. Sì, però dovremmo escogitare un sistema per convincere la vecchia signora Sloane a tenere la sua mucca lontano dalla strada, altrimenti ci mangerà tutti i gerani fino all'ultimo, rise Diana. Comincio a capire cosa vuoi dire quando parli di sensibilizzare la pubblica opinione. Ecco la casa diroccata di Boulter. Hai visto mai una catapecchia più cadente? È appollaiata proprio sulla strada, per di più. Una casa vecchia, senza più finestre. Mi fa pensare a qualcosa di morto che non abbia più gli occhi. Mi sembra che una casa vecchia abbandonata sia uno spettacolo molto triste, disse Anna. Mi pare che stia pensando sempre ai giorni passati e che rimpianga le gioie di un tempo. Marilla dice che in quella casa tanto tempo fa viveva una famiglia molto numerosa e che era un posto davvero gradevole, con un bel giardino, che risuonava di canti e risate. Ora è vuota e nessuno tranne il vento vi entra più. Come deve sentirsi sola e malinconica. Forse nelle notti di luna tutti ritornano, i fantasmi dei bambini di tanti anni fa. E le rose, e i canti, e per un po' la vecchia casa può sognare di essere ancora giovane e piena di gioia. Diana scosse la testa. Non riesco più a immaginarmi cose del genere quando penso a certi luoghi. Ti ricordi quanto si arrabbiarono la mamma e Marilla quando ci immaginavamo i fantasmi nel bosco stregato? Ancora oggi, dopo il tramonto, non riesco a passare attraverso il boschetto senza un po' di batticuore, e se cominciassi a fantasticare allo stesso modo, sulla vecchia casa di Boulter avrei paura di passarci davanti. E per di più, quei bambini non sono affatto morti, sono cresciuti e godono di ottima salute. Uno di loro fa il macellaio. E comunque non esistono i fantasmi né dei fiori né dei canti. Anna represse un lieve sospiro. Amava teneramente Diana ed erano sempre state buone amiche, ma ormai aveva imparato da molto tempo che quando vagabondava nel regno della fantasia doveva essere sola. Il sentiero che conduceva a quel regno era un sentiero incantato dove neanche l'amica più cara avrebbe potuto seguirla. Mentre le ragazze erano a Carmody, si scatenò un acquazzone con tuoni e fulmini. Non durò a lungo, tuttavia, e ritornò a casa attraverso viottoli dove le goccioline di pioggia brillavano sui rami e attraverso vallette frondose dove le felci inzuppate d'acqua sprigionavano un profumo aromatico. Fu delizioso. Ma proprio mentre svoltavano per il sentiero dei Cuthbert, Anna vide qualcosa che le rovinò la bellezza del paesaggio. Innanzi a loro, sulla destra, si estendeva il vasto campo grigio-verde dell'avena tardiva del signor Harrison, bagnata e lussureggiante, e là, esattamente in mezzo, immersa fino ai fianchi lucenti in quella rigogliosa vegetazione, c'era una mucca Jersey che le guardava tranquilla di sottecchi tra le nappe che le ricadevano sulla fronte. Anna lasciò cadere le redini e si alzò in piedi, serrando le labbra in un modo che non lasciava prevedere nulla di buono per il quadrupede razziatore. Non disse parola, ma lesta scavalcò le ruote e superò agilmente lo steccato prima che Diana si rendesse conto dell'accaduto. «Anna, torna indietro!» strillò Diana non appena ebbe recuperata la voce. «Ti rovinerà il vestito in mezzo a quella vena inzuppata d'acqua!» Ah, non mi dà retta, e da sola non ce la farà mai a portar fuori di lì quella mucca. Devo andare ad aiutarla. Anna correva a precipizio nel campo, come una matta. Diana saltò giù, svelta, legò ben bene il cavallo a un palo, si tirò sulle spalle la gonna del suo bel vestito di percalle, si arrampicò sullo steccato e partì all'inseguimento della sua frenetica amica. Riusciva a correre più svelta di Anna, che era impacciata dalla gonna bagnata che le si incollava alle gambe, e ben presto la superò. Lasciarono alle loro spalle una scia che avrebbe spezzato il cuore al signor Harrison quando l'avesse vista. «Anna, per amor del cielo, fermati!» ansimava la povera Diana. «Sono senza fiato e tu sei bagnata fino alle ossa!» «Devo far uscire quella mucca prima che il signor Harrison possa vederla!» disse Anna tutta affannata. «Non mi importa se annego, purché ci riesca!» Ma la mucca Jersey non vedeva alcun motivo valido per essere scacciata a spintoni da quel suo succulento pascolo. Appena le due ragazze, tutte affannate, la raggiunsero, essa si voltò e si allontanò decisa verso il limite opposto del campo. «Fermala!» gridò Anna. «Corri, Diana, corri!» Diana corse. E anche Anna vi si provò, ma la perfida Jersey saettò lungo l'intero perimetro del campo come se fosse stata indemoniata. E Diana in cuor suo pensava che lo fosse davvero. Ci vollero 10 minuti buoni per riuscire a bloccarla e ad avviarla verso l'apertura d'angolo del recinto che dava sul viottolo dei Cuthbert. Non si può negare che in quel preciso momento Anna fosse di un umore tutt'altro che angelico, né la confortò minimamente il vedere fermo sul ciglio del viottolo un calesse su cui sedevano il signor Shearer di Carmody e suo figlio, che sorridevano entrambi apertamente. «Mi sa che avrebbe fatto meglio vendermi quella mucca quando gliel'ho chiesta la scorsa settimana», disse il signor Shearer. «Gliela vendo ora, se la vuole ancora», rispose la padrona della mucca, tutta rossa e scarmigliata. «È sua, fin da questo preciso istante». «D'accordo. Le darò $20, come le avevo già offerto, e Jim penserà lui a guidarla fino a Carmody. Andrà in città con il resto del carico stasera. Il signor Reed di Brighton vuole giusto una mucca Jersey». 5 minuti dopo, Jim Shearer e la mucca Jersey erano in cammino e l'impulsiva Anna percorreva in calesse la via per Green Gables con i suoi $20. «Che cosa dirà Marilla?» chiese Diana. «Oh, nulla. Dolly era proprio mia e non credo che all'asta le avrebbe reso più di $20. Ma, oh, povera me, se il signor Harrison vede in che stato è il campo, capirà che vi è entrata di nuovo. E pensare che gli ho dato la mia parola d'onore che non sarebbe più accaduto. Ben mi sta, così imparerò a non dare la parola d'onore quando si tratta di mucche. E comunque una mucca capace di scavalcare o di abbattere lo steccato del recinto per la mungitura è un animale di cui non ci si può fidare». Marilla era andata a trovare la signora Linde. E al suo ritorno sapeva già tutto della vendita e del trasferimento di Dolly, dato che la signora Linde aveva assistito alla maggior parte della transazione dalla sua finestra e il resto se l'era immaginato. «Credo che tutto sommato sia meglio averla data via, anche se tu veramente fai le cose in modo tanto avventato. Non capisco però come abbia fatto a uscire dal recinto, deve aver rotto qualche paletto». «Ah, non mi è venuto in mente di andare a guardare», rispose Anna, «ma lo faccio subito. Martin non si è più visto, forse gli è morta qualche altra zia, credo che sia come la storia del signor Peter Sloane e degli ottuagenari. L'altra sera la signora Sloane stava leggendo un giornale e ha detto al signor Sloane: «Qui c'è scritto che è morto un altro ottuagenario. Che cos'è mai un ottuagenario, Peter?» E il signor Sloane le rispose che non lo sapeva, ma che doveva trattarsi di creature dalla salute molto cagionevole, perché se ne sentiva parlare solo quando morivano. Beh, è la stessa cosa con le zie di Martin. Martin è proprio come tutti quei francesi, disse Marilla nauseata. Non ti puoi fidare di loro neanche un giorno. Marilla stava dando un'occhiata agli acquisti fatti da Anna a Carmody, quando udì uno strillo acuto provenire dalla stalla. Un minuto dopo Anna piombava in cucina torcendosi le mani. Anna Shirley, che cosa c'è ora? Oh, Marilla, che devo fare? È terribile ed è tutta colpa mia. Oh, quando mai imparerò a riflettere un pochino prima di agire tanto sconsideratamente? La signora Lind me l'ha sempre detto che un giorno avrei combinato qualcosa di irreparabile e ora l'ho fatto. Anna, sei davvero esasperante. Su, sentiamo che cosa hai fatto. Ho venduto al signor Shearer la mucca Jersey del signor Harrison, quella che lui aveva comprato dal signor Bell. Dolly in questo momento se ne sta tranquilla nella stalla. Anna Shirley, stai sognando? Magari sognassi, non è un sogno, è un incubo. E a quest'ora la mucca del signor Harrison è a Charlottetown. Oh, Marilla, Marilla, credevo di aver finito di mettermi nei pasticci. Ed eccomi in mezzo al più gran pasticcio che io abbia mai combinato in vita mia. Che cosa posso fare? Che puoi fare? Non c'è nulla da fare, bambina mia, se non andare subito dal signor Harrison e informarlo dell'accaduto. Possiamo offrirgli in cambio la nostra Jersey se non vuole saperne del denaro, vale quanto la sua. Sono sicura che sarà arrabbiatissimo e intrattabile, ci scommetto, disse Anna in tono lamentoso. Presumo proprio di sì, deve essere un tipo molto irascibile. Se vuoi, posso andare io a spiegargli come sono andate le cose. No, non sarò certo così vile, esclamò Anna. È tutta colpa mia e non è giusto che tu debba andarci di mezzo. Andrò io e ci andrò subito. Meglio farla finita presto, perché sarà un'umiliazione terribile. La povera Anna si calcò il cappello in testa, prese i suoi $20. E stava per uscire quando diede uno sguardo dalla porta aperta della dispensa. C'era sul tavolo una torta di noci che aveva infornato quella mattina, una combinazione particolarmente gustosa, guarnita di glassa rosa e di noci. Anna l'aveva destinata al venerdì sera, quando i giovani di Avon Lee avevano in programma di riunirsi a Green Gables per gettare le basi della Società del Progresso. Ma cos'erano essi al paragone del signor Harrison, tanto giustamente offeso? Anna pensò che la torta avrebbe dovuto intenerire il cuore di ogni uomo, specialmente di uno che doveva farsi da mangiare da solo, e svelta la infilò in una scatola. L'avrebbe portata al signor Harrison come offerta di pace. Se mi darà l'opportunità di parlare, pensò afflitta mentre scavalcava lo steccato e si avviava per una scorciatoia attraverso i campi dorati della luce di quella serata di sogno. Adesso lo so come si sentono quelli che sono condotti al patibolo. Capitolo 3. La casa del signor Harrison era una costruzione un po' vecchiotta, dalle grondaie basse, imbiancata a calce, che si stagliava contro un fitto boschetto di abeti. Il signor Harrison in persona sedeva sulla veranda ombreggiata dai rampicanti, in maniche di camicia, con la pipa in bocca, godendosi la fumatina serale. Quando si accorse di chi stava risalendo il sentiero, balzò in piedi di colpo, schizzò in casa e sprangò la porta. Questa era soltanto la spiacevole conseguenza della sorpresa, unita a una buona dose di vergogna per essersi lasciato trasportare dalla collera il giorno prima. Tuttavia, rischiò di togliere ad Anna quel poco di coraggio che le restava in cuore. Mamma mia, se è così bisbetico ora, che sarà quando verrà a sapere quel che ho fatto? Rifletté demoralizzata mentre dava un picchio secco alla porta. Invece il signor Harrison l'aprì, sorridendo un po' impacciato, e la invitò a entrare con tono pacato e amichevole, anche se un po' nervoso. Aveva messo da parte la pipa e infilato la giacca. Offrì con molta gentilezza ad Anna una sedia parecchio polverosa. E l'accoglienza si sarebbe potuta definire abbastanza cordiale se non fosse stato per una malalingua di pappagallo che occhieggiava dalle sbarre della sua gabbia con maligni occhi dorati. Appena Anna si fu seduta, Ginger, il pappagallo, esclamò: Bontà divina, che cosa è venuta a fare quella mocciosa con i capelli rossi? Sarebbe stato difficile dire quale delle due facce fosse la più rossa, quella del signor Harrison o quella di Anna. Ah, non badi a quel pappagallo, disse il signor Harrison lanciando uno sguardo furibondo a Ginger. Non fa che dire sciocchezze. L'ho avuto da mio fratello, che era un marinaio. I marinai non hanno un linguaggio molto fine e i pappagalli hanno un grande spirito di imitazione. Lo so anche io, assentì la povera Anna, in cui il motivo che l'aveva portata lì soffocava ogni risentimento. Non poteva permettersi di muovere rimproveri a signor Harrison, date le circostanze, questo era certo, quando una ragazza ha appena venduto la mucca Jersey di un tizio, senza che lui nemmeno lo sapesse o vi acconsentisse, non se la può prendere se il suo pappagallo le dice delle sgarberie. Tuttavia, la mocciosetta dai capelli rossi non era così remissiva come avrebbe dovuto essere. Sono venuta. Devo farle una confessione, signor Harrison, disse risolutamente. Si tratta della mucca Jersey. Bontà divina! Esclamò il signor Harrison nervosamente. È di nuovo entrata nel mio campo d'avena. Beh, non importa, non importa anche se l'ha fatto. Ieri me la sono presa troppo, questo è un fatto. Non importa. Oh, fosse solo questo, sospirò Anna, ma è 10 volte peggio. Non. Bontà divina! Intende dire che è entrata nel campo? No, no, non si tratta della vena, ma allora ha fatto irruzione tra i cavoli, quelli che stavo coltivando per la mostra, eh? Non si tratta neppure dei cavoli, signor Harrison. Le dirò tutto, è per questo che sono venuta, ma per favore, non mi interrompa, mi rende nervosa. Mi lasci raccontare la mia storia e non dica nulla finché non l'avrò terminata, e allora ne avrà da dire, non dubiti, concluse Anna, ma solo con il pensiero. Beh, non dirò più una parola, promise il signor Harrison e così fece. Ma Ginger, che non si era affatto impegnato a mantenere il silenzio, continuò a intervalli a lanciare il suo mocciosa dai capelli rossi, finché Anna non si sentì quasi impazzire dalla rabbia. Ieri ho chiuso nella stalla la nostra mucca Jersey. Stamattina sono andata a Carmody e nel tornare ho visto in mezzo alla sua vena una mucca Jersey. Diana e io l'abbiamo rincorsa per farla uscire e non le dico il da fare che abbiamo avuto. Ero terribilmente stanca, inzuppata d'acqua e contrariata, e proprio in quel momento è comparso il signor Shearer e si è offerto di acquistare la sua mucca. Gliel'ho venduta, lì, per $20. Certo, ho sbagliato, avrei dovuto aspettare e consultare Marilla, ma sono malauguratamente portata a fare le cose senza riflettere. Glielo confermerà chiunque mi conosce. E il signor Shearer si è preso subito la mucca per spedirla via con il treno del pomeriggio. Mocciosa dai capelli rossi! Fece Ginger con tono di disprezzo profondo. A questo punto il signor Harrison si alzò e con un'espressione che avrebbe gelato di terrore qualunque uccello, a eccezione di un pappagallo, portò la gabbia di Ginger nella stanza attigua e chiuse la porta. Ginger strillò, imprecò e si comportò in maniera da non smentire la sua fama, ma alla fine, vedendosi solo, cadde in un cupo silenzio. Voglia scusarmi e continui, la prego, disse il signor Harrison rimettendosi a sedere. Mio fratello, il marinaio, non ha saputo insegnare l'educazione a quell'uccello. Sono tornata a casa e dopo il tè mi sono recata nella stalla, signor Harrison. Anna si chinò in avanti, torcendosi le mani con il suo vecchio gesto infantile, mentre i suoi grandi occhi grigi fissavano imploranti il volto imbarazzato del signor Harrison. E qui ho trovato la mia mucca ancora rinchiusa nella stalla. Quella che avevo venduto al signor Shearer era la sua mucca. Bontà divina! Esclamò il signor Harrison, esterrefatto da questa imprevista conclusione. Ecco una cosa davvero straordinaria. Oh, non è affatto straordinario che io metta sempre me stessa e gli altri nei pasticci, disse Anna in tono lugubre. Sono famosa per questo. Lei penserà che a quest'ora avrei dovuto essere cresciuta, compio 17 anni a marzo, ma pare proprio di no. Signor Harrison, è troppo sperare che lei vorrà perdonarmi. Temo che sia troppo tardi per farle riavere la sua mucca, ma ecco, questo è il denaro, o se preferisce posso darle in cambio la mia mucca. È una buona bestia, io non so dirle quanto sia addolorata per tutto questo. Zitta, zitta, disse il signor Harrison con vivacità. Non dica più una parola a questo proposito, signorina. Non ha alcuna importanza, alcuna importanza. Accadono incidenti come questo. Anch'io a volte sono troppo irruente, signorina, davvero troppo, ma non posso impedirmi di esprimere quello che penso e la gente deve prendermi come sono. Se quella mucca fosse entrata tra i miei cavoli, per esempio, ma lasciamo correre, non c'è entrata ed è tutto a posto. Credo che preferirei avere in cambio la sua dal momento che vuole sbarazzarsene. Oh, grazie, signor Harrison, sono così contenta che non sia arrabbiato. Temevo proprio che lo sarebbe stato. E immagino che avesse addosso una gran paura a venir qui a raccontarmi tutto dopo il baccano che ho fatto ieri, eh? Ma non deve farci caso, sono un vecchio che ha il vizio di parlar schietto, ecco tutto. Sono portato a dire sempre la verità, anche se a volte è un tantino spiacevole. È come la signora Linde, si lasciò scappare Anna e ormai era fatta. Chi? La signora Linde? Non mi dica che assomiglio a quella vecchia pettegola, fece il signor Harrison irritato. Non le assomiglio neanche un po'. Ma che cos'ha in quella scatola? Ho una torta, rispose Anna con una punta di malizia. Era così contenta per l'inattesa amabilità del signor Harrison che il morale le stava salendo alle stelle, come una piuma. L'ho portata per lei, ho pensato che forse ne mangia di rado. È vero, infatti, e mi piacciono molto. Le sono grato. All'aspetto sembra squisita, spero che lo sia davvero. Oh, sì, disse Anna allegra e fiduciosa. Una volta facevo anche torte che non erano affatto squisite, come potrebbe dirle la signora Allan, ma questa è proprio buona. L'ho fatta per la Società del Progresso, ma per loro posso farne un'altra. Beh, sa una cosa, signorina? Dovrà aiutarmi a mangiarla. Vado a metter su l'acqua e prenderemo una tazza di tè. Che ne dice? Preferisce che lo prepari io, il tè? Chiese Anna un po' dubbiosa. Il signor Harrison fece una risatina. Vedo che non si fida della mia abilità nel fare il tè. Si sbaglia. Sono capace di preparare la più buona tazza di tè che abbia mai bevuto. Ma faccia lei, se vuole. Per fortuna domenica scorsa ha piovuto e di piatti puliti ce ne ha volontà. Anna saltò su, svelta, e si mise al lavoro. Sciacquò parecchie volte la teiera con acqua calda prima di mettere il tè in infusione. Poi spense la stufa e preparò la tavola, prendendo le stoviglie nel tinello. Lo stato del tinello la fece inorridire, ma saggiamente tacque. Il signor Harrison le spiegò dove trovare il pane, il burro e un barattolo di pesche. Anna guarnì la tavola con un mazzolino di fiori, raccolti nel giardino, e chiuse gli occhi di fronte alle macchie della tovaglia. Ben presto il tè fu pronto e Anna si ritrovò seduta di fronte al signor Harrison, al suo tavolo, intenta a versargli la bevanda. Chiacchierarono piacevolmente con lui della scuola, dei suoi amici e dei suoi progetti. Riusciva a malapena a credere all'evidenza. Il signor Harrison era andato a prendere Ginger, dichiarando che quel povero uccello poteva sentirsi solo, e Anna, che era disposta a perdonare tutto a tutti, gli offrì una noce. Ma i sentimenti di Ginger erano stati aspramente feriti ed esso rifiutò qualunque profferta di amicizia. Se ne stette immusonito sul posatoio e si arruffò le penne al punto da sembrare una palla color verde e oro. Perché l'ha chiamato Ginger? Chiese Anna, che amava i nomi appropriati e trovava che Ginger non s'accordava con quel magnifico piumaggio. Oh, è stato mio fratello a chiamarlo così, forse per qualche analogia con il suo carattere, eppure voglio molto bene a quell'uccello, ma non immagina quanto. Ha i suoi difetti, è naturale. Mi è costato parecchio, per un motivo o per l'altro. Certuni trovano da ridire perché ha l'abitudine di imprecare, ma è impossibile togliergliela. Ho provato io, hanno provato altri. Certa gente nutre dei preconcetti nei confronti dei pappagalli. È sciocco, no? A me piacciono. Ginger mi fa molta compagnia. Non me ne separerei per nulla al mondo, per nulla al mondo, signorina. Signor Harrison lanciò ad Anna quest'ultima frase con un impeto tale come se sospettasse che ella nutrisse il segreto proposito di persuaderlo a rinunciare a Ginger. Ad Anna, tuttavia, quell'uomo bizzarro, irrequieto e nervoso cominciava ad essere simpatico e prima che il tè fosse finito erano amici per la pelle. Il signor Harrison si informò della Società del Progresso e manifestò la sua approvazione. Benissimo, continuate su questa strada. Ce n'è di cose da migliorare in questo paese e anche tra la gente. Oh, non lo so, ribatté Anna. Ella poteva ammettere con se stessa o con gli amici che in Avonlea e nei suoi abitanti esistessero alcune piccole imperfezioni facilmente rimediabili, ma sentirselo dire da un estraneo, come era di fatto il signor Harrison, era tutta un'altra faccenda. Tutto sommato, penso che Avonlea sia un bel posto e che anche la gente che ci vive sia molto simpatica. Mi sa che lei si inalbera facilmente, commentò il signor Harrison osservando le guance infiammate e gli occhi lampeggianti fissi su di lui. Suppongo che il suo temperamento vada d'accordo con i suoi capelli. Avonlea è un luogo molto rispettabile, altrimenti non mi sarei stabilito qui, ma ammetterà anche lei che ha degli inconvenienti. E questi appunto me lo rendono più caro, rispose lealmente Anna. Non mi piacciono i posti e la gente senza difetti. Ho idea che una persona del tutto perfetta sarebbe poco interessante. La signora White dice che non ha mai conosciuto nessuno che fosse perfetto, ma che di una persona perfetta ha sentito parlare a non finire, e cioè della prima moglie di suo marito Milton. Non crede che deve essere molto imbarazzante essere sposata a un uomo la cui prima moglie era perfetta? Sarebbe ancora più imbarazzante essere sposato con la più perfetta delle mogli, dichiarò il signor Harrison con un calore improvviso e inspiegabile. Quando ebbero finito di prendere il tè, Anna insistette per lavare le stoviglie, anche se il signor Harrison le assicurò che ce n'erano tante in quella casa da bastare ancora per settimane. Ella sarebbe stata anche ben lieta di spazzargli il pavimento, ma non c'era alcuna scopa in vista e non voleva chiedere dove fosse per paura che non esistesse scopa di sorta. «Potrebbe fare una capatina ogni tanto per scambiare due chiacchiere con me», suggerì il signor Harrison quando ella fu sul punto di accomiatarsi. «Non è lontano e dovremmo mantenere delle relazioni di buon vicinato. Mi interessa, sa, quella sua società. Mi sembra che ci sarà di che divertirsi. Con chi comincerete, eh?» «Ma non abbiamo intenzione di mettere di mezzo la gente, vogliamo solo migliorare i luoghi», rispose Anna con tono dignitoso. Sembrava di intuire che il signor Harrison volesse prendersi gioco del suo progetto. Quando se ne andò, il signor Harrison restò a guardarla dalla finestra, una figurina flessuosa e adolescente che si muoveva agile attraverso i campi nel bagliore residuo del tramonto. «Sono un vecchio irritabile, solitario e bisbetico», disse a voce alta. «Ma c'è qualcosa in quella ragazzina che mi fa sentire di nuovo giovane ed è una sensazione così piacevole che vorrei che si ripetesse di tanto in tanto». «Mocciosa dai capelli rossi!» gracchiò Ginger, beffardo. Il signor Harrison minacciò con il pugno il pappagallo. «Caparbio di un uccello!» borbottò. «Mi fai rimpiangere di non averti tirato il collo la prima volta che mio fratello ti ha portato a casa. Non la finirai proprio mai di mettermi in imbarazzo». Anna corse a casa, tutta allegra, e raccontò le sue avventure a Marilla, che si era preoccupata non poco per la sua lunga assenza e stava quasi per uscire a cercarla. «Oh, il mondo è proprio bello, dopo tutto, non è vero, Marilla?» concluse Anna, tutta felice. «L'altro giorno la signora Lind se ne lamentava. Diceva che ogni volta che uno si aspetta una cosa piacevole può contare di essere più o meno deluso, che nulla risponde mai alle tue aspettative. Beh, forse è vero, ma bisogna considerare anche un altro aspetto. Neanche le cose spiacevoli sono sempre come te le aspetti. Quasi sempre si risolvono molto meglio di quel che uno pensi. Stasera, quando sono uscita per recarmi dal signor Harrison, presentivo un'esperienza molto sgradevole, invece lui è stato proprio gentile e mi sono quasi divertita. Credo che diventeremo davvero buoni amici se ognuno cercherà di essere tollerante con i difetti dell'altro. E alla fin fine tutto si è risolto per il meglio, ma in ogni caso, Marilla, sono sicura che non venderò mai più una mucca prima di accertarmi chi ne sia il proprietario. Ai pappagalli, poi, no, quelli non mi piacciono proprio».